Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! È il 1802. Nasce la Repubblica Italiana, Bonaparte presidente, la capitale è Milano. Firmato un trattato fra Francia e Inghilterra, scambio di prigionieri e promesse di pace. Il primo console reintroduce la schiavitù nelle colonie, repressione francese in Sud America. Una strana collezione arriva da Londra, i modelli in cera creati da Madame Tussaud. Una buona giornata da Paolo Piacenza e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento, in apertura le vicende italiane che da questo 1802 hanno tutto il diritto di chiamarsi tali. Il cambiamento era nell'aria e forse Bonaparte, nato francese quasi per caso poco tempo dopo l'annessione della Corsica a Parigi, aveva pensato a creare un'entità che si chiamasse Italia, sogno finora solo di alcuni patrioti. Per ora la Repubblica comprende solo una grande fetta del nord Italia, la ex Repubblica Cisalpina, mentre il Piemonte è stato direttamente annesso alla Francia e la Repubblica Ligure resta separata. Dentro ci sono il Bresciano, il Bergamasco, la zona di Verona e un pezzo del Polesine, quasi tutte l'Emilia e la Romagna, Massa Carrara. Il presidente sarà lo stesso Bonaparte, vicepresidente Francesco Melzi de Ril. Il varo della Repubblica è stato affidato ad una sorta di comitato composto da 450 persone che si sono raccolte tra dicembre e gennaio a Lione. Tra loro quasi nessun esponente della nobiltà, ma nemmeno delle classi popolari. Melzi è un patriota, fautore del l'indipendenza italiana, alla quale però nella Costituzione appena varata non si fa il minimo cenno. Simone Spezia, il Gazzettino del Risorgimento, Radio 24. Intanto Francia e Gran Bretagna hanno firmato ad Amiens un trattato che pone fine alle ostilità tra i due paesi e almeno per il momento anche in Europa. La colonia di Trinidad viene ceduta agli inglesi dalla Spagna, che conserva il dominio su Minorca, così come agli inglesi viene ceduta l'isola di Ceylon dalla Repubblica Batava. Londra, con il trattato, riconosce la legittimità della Repubblica Francese. Nel testo anche dichiarazioni di pace e fratellanza tra le parti, oltre che accordi per la restituzione reciproca di prigionieri e ostaggi. E il primo console ha intanto reintrodotto la schiavitù nelle colonie abolita durante la rivoluzione. Agli ordini del generale Lacrosse, i francesi sono tornati nelle colonie per riportare l'ordine. I soldati di colore inseriti nello stesso esercito di Parigi hanno cercato di resistere a Guadalupe, ma sono stati sconfitti. Sull'isola di Saint-Dominique, o Haiti, come la chiama il popolo indigeno degli Arawaki, è stato inviato il cognato di Bonaparte, il generale Leclerc. Anche qui durissima la repressione, mentre l'autoproclamato dittatore dell'isola, Toussaint Louverture, è stato catturato ed è morto in carcere. Si chiama Marie Tussaud ed è arrivata in Inghilterra con una delle collezioni più strane che si possono immaginare. Si tratta di statue e modelli in cera di personaggi famosi. Tra questi vi sono il filosofo Voltaire, Jean-Jacques Rousseau e Benjamin Franklin, oltre a un certo numero di calchi delle teste di uomini e donne decapitati durante la Rivoluzione francese. La donna, nata a Strasburgo, ha appreso l'arte di modellare la cera dallo svizzero Philippe Curtius, nella cui casa bernese sua madre faceva la domestica. È tutto per questa edizione curata da Simone Spezia e Paolo Piacenza, che l'ha condotta. Sul nostro sito www.radio24.it, oltre a riascoltare la versione audio del Gazzettino, potete anche scaricarne una versione da leggere e, volendo, stampare. Se volete scriverci e non avete penna e calamaio, l'indirizzo email è gazzettino@radio24.it.